Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io credo che questo secolo possa essere il secolo in cui la sfida sia quella proprio della parità di diritti tra uomini e donne. Parità di diritti che sembra acquisita, ma che poi noi sappiamo nella nostra quotidianità non esserlo pienamente, se ancora oggi in Europa c'è un divario stipendiale tra uomini e donne che raggiunge quasi il 17% di media. E questo a parità di mansione, a parità ovviamente di preparazione, istruzione, formazione culturale. Già, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, si è fatta risentire la ministra Boschi oggi alla Normale di Pisa, una sua lezione sulle nuove frontiere dei diritti, dicendo le cose giuste, purtroppo oggettive e obiettive sulle differenze tra donne e uomini. E tra l'altro oggi è la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali, che in tutto il mondo colpiscono in questo momento 200 milioni di ragazze. Pensate, 200 milioni di ragazze. Ci occuperemo di molte cose, naturalmente, anche questa sera, riniziando la settimana di Effetto Notte. Parleremo di Francia, perché si parla di effetto Le Pen nelle ultime ore. Si è rialzato lo spread, da quanto non ci preoccupavamo dello spread, si è rialzato soprattutto dopo le dichiarazioni della leader del Front National francese, Marine Le Pen, che sapete è candidata alle presidenziali francesi, che ha detto: se io dovessi diventare presidente farò un referendum per far uscire la Francia dall'euro, dall'Unione Europea e dalla NATO. E tutto questo, insieme anche alle dichiarazioni di Trump ogni due per tre, sta creando insomma uno scenario internazionale piuttosto movimentato. Poi ci occuperemo di una storia, di una situazione gravissima, aberrante, che è quella della Terra dei Fuochi, quelle aree tra la provincia di Napoli e la provincia di Caserta, dove continuano a morire le persone. Oggi c'è la denuncia delle madri che fanno parte di questo comitato delle vittime della Terra dei Fuochi, che denunciano che negli ultimi tre mesi sono morti 8 bambini tra i 7 mesi e gli 11 anni di tumore. Ed è comprovato che in quella zona si continua a morire, c'è un'alta mortalità per tumori, soprattutto tra i bambini. Poi, per cercare anche di alleggerirci un po' l'animo, ci occuperemo di Sanremo. Domani inizia, oggi è stata la conferenza stampa di due conduttori, Conti e De Filippi, quindi anche qui faremo un'escursione su questo argomento. Intanto, per interagire con Effetto Notte, voi ormai lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, e poi c'è il numero per WhatsApp ed SMS, quindi sia sulla pagina Facebook sia su questo numero potete scrivere le vostre osservazioni, domande, commenti. Prima di tutto, però, prima di approfondire i vari temi che in parte vi ho elencato, riassunto della giornata. Lo spread risale a quota 200 punti, ai massimi da tre anni, borse in rosso. Il presidente della BCE Draghi avverte: l'Unione Europea non reggerà senza euro. E a Trump replica: noi non manipoliamo il cambio. Francia, Marine Le Pen promette, causando appunto il rialzo dello spread anche nel suo paese: se divento presidente, fuori dall'Unione Europea, dall'euro e dalla NATO. Intanto il candidato della destra, Fillon, chiede scusa per il Penelope Gate, ma esclude il suo ritiro. Politica italiana, Renzi dice: nel PD pronti ogni confronto nel rispetto delle regole. Grillo elenca i successi di Virginia Raggi. La Terra dei Fuochi, le madri protestano davanti alla prefettura di Napoli e denunciano: negli ultimi tre mesi sono morti di tumore 8 bambini. Mutilazioni genitali nel mondo le hanno subite 200 milioni di ragazze. Oggi è la giornata mondiale per dire tolleranza zero. Gran Bretagna, suicida in un carcere britannico. L'italiano che uccise un agente di polizia era stato condannato all'ergastolo. Benzina, è in Italia il pieno più caro d'Europa e per costi del possesso dell'auto si spende di più solo in Norvegia. E poi il Festival del Sanremo, con conferenza stampa di Conti e De Filippi per la 66esima edizione, che parte domani. Calcio: dopo Juve-Inter, il giudice sportivo squalifica per due giornate Icardi e Perisic. Partiamo quindi dallo spread, dalle borse. Sono state le parole di Marine Le Pen, vi dicevo, che ipotizza un'uscita della Francia dall'euro e dalla NATO, a far scivolare soprattutto le borse europee. Milano è la peggiore, è stata, ha perso il 2,2%, attorno a un punto hanno perso Francoforte e Parigi. A confermare le tensioni c'è anche il differenziale di rendimento fra il Bund tedesco e il BTP italiano, appunto lo spread, che ha toccato oggi quota 200 punti. In questo contesto oggi il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, è intervenuto davanti al Parlamento Europeo. With the single currency, we have forged bonds Mario Draghi difende l'euro davanti al Parlamento europeo e spiega che il trattato di Maastricht fu una decisione coraggiosa. Con la moneta unica, sottolinea, abbiamo forgiato bond sopravvissuti alla peggiore crisi economica dalla Seconda Guerra Mondiale. L'euro, dice Draghi, secondo il trattato è una moneta irrevocabile, ci tiene uniti in tempi di chiusure nazionali. Il presidente della BCE si dice preoccupato dagli annunci di misure protezionistiche, boccia l'intenzione di Trump di allentare le regole finanziarie e difende la politica monetaria attuata dalla BCE che ha consentito di fronteggiare la crisi. Draghi rilancia la centralità della moneta unica nella costruzione europea all'indomani del discorso di Marine Le Pen che ha evocato l'uscita della Francia dall'euro. Una prospettiva che ha innescato la tensione sui mercati dei titoli di Stato e la risalita dello spread. Il differenziale di rendimento tra i BTP decennali e il Bund tedesco ha toccato oggi quota 200 punti, ai massimi da 3 anni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a Piazza Affari l'attenzione si è rivolta al delicato aumento dei capitali di Unicredit che questa mattina ha avviato le operazioni per raccogliere 13 miliardi di euro. L'azione ordinaria ha chiuso in calo del 7% e il diritto in flessione del 19%. Francia, dall'effetto Le Pen al mea culpa del candidato della destra alle presidenziali Fillon, che è travolto dal Penelope Gate, cioè dallo scandalo che ha riguardato sua moglie e occupazioni sue fittizie, quindi pagamenti di cifre piuttosto considerevoli. Oggi Fillon ha detto in conferenza stampa: è stato un errore, me ne rammarico profondamente, rivolgo le mie scuse ai francesi, ma assolutamente escluso di volersi ritirare dalla corsa all'Eliseo. Tra poco poi ci collegheremo per parlarne con la Francia. Ancora all'estero, Stati Uniti, sono 97 le aziende tecnologiche, da Apple a Facebook, da Google a Microsoft, che si sono rivolte a una corte d'appello americana con un documento a sostegno dell'azione legale dello Stato di Washington contro il Muslim Ban, che è appunto il bando all'immigrazione di musulmani da 7 paesi arabi. Le compagnie scrivono che il decreto Trump infligge un danno significativo agli affari americani, all'innovazione e alla crescita. La protesta dei musei parte invece dal MoMA, che oggi sposta Picasso per far posto ad artisti dei paesi messi al bando. Da Mosca poi è arrivato il disaccordo da parte del Cremlino sull'affermazione del presidente americano Trump secondo cui l'Iran è lo stato terrorista numero uno. E poi, per quanto riguarda le proteste nei confronti di Trump, il gruppo che ha organizzato la grande marcia delle donne a Washington il giorno dopo il giuramento di Donald Trump da presidente degli Stati Uniti ha annunciato la volontà di pianificare un giorno di sciopero. Sui social network il gruppo ha annunciato uno sciopero generale, un giorno senza una donna. Al momento non sono stati forniti altri particolari, però si ricorda che centinaia di migliaia di persone hanno manifestato a Washington e molte altre città del paese e del resto del mondo contro il 45esimo presidente degli Stati Uniti, e questo successo inaspettato della manifestazione ha spinto il gruppo della Marcia delle Donne a organizzarsi per ulteriori eventi. Ora in Gran Bretagna si è suicidato in un carcere di Londra il 50enne di origine italiana Stefano Brizzi, condannato lo scorso dicembre all'ergastolo per aver ucciso e sciolto nell'acido un poliziotto dopo un incontro sfondo sessuale. Secondo la prima ricostruzione dei media britannici, Stefano Brizzi è stato trovato morto nella sua cella. A darne conferma oggi sono fonti diplomatiche, mentre anche il Ministero della Giustizia inglese ha confermato che si è trattato di suicidio. La polizia ieri era stata chiamata dalle autorità della prigione di Belsharm a Londra poco prima delle 10:15 del mattino per un prigioniero che non rispondeva. Arrivati sul posto, gli agenti non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo. Durante il processo che ha portato alla sua condanna era emerso che Brizzi aveva compiuto atti di cannibalismo nei confronti della sua vittima. Non solo, l'ex tecnico informatico della City aveva ammesso di aver cercato di occultare il corpo immergendolo a pezzi nell'acido, ispirandosi alla sua serie televisiva preferita Breaking Bad, ma aveva negato di aver ucciso il poliziotto incontrato per un appuntamento a base di sesso e droghe, sostenendo che l'uomo fosse morto strangolato in un gioco erotico finito male. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per accertare in che modo Brizzi si sia tolto la vita. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche a Roma diverse centinaia di romeni, parlando invece di Romania, si sono riuniti a Piazza dell'Esquilino in solidarietà con i propri connazionali per manifestare contro il governo romeno guidato da Grindanu. 6 giorni di proteste in tutta la Romania hanno costretto il governo socialdemocratico a ritirare il decreto salva corrotti, ma le proteste sono continuate in tutto il fine settimana. E arriviamo così alla politica italiana. Nuovo intervento di Beppe Grillo a sostegno di Virginia Raggi, la sindaca di Roma indagata per le nomine in Campidoglio. dallo stanziamento di oltre 400 milioni per il trasporto pubblico locale all'approvazione del bilancio. Sul suo blog Beppe Grillo torna a difendere Virginia Raggi elencando quelli che definisce i 43 successi della sua giunta. Ci siamo buttati a capofitto in questa avventura e nonostante le difficoltà stiamo iniziando a cambiare la città, scrive il leader del Movimento 5 Stelle. Una rinnovata fiducia nei confronti della sindaca pentastellata che in un'intervista ammette di essere partita in modo sbagliato, ma assicura che ora inizierà una nuova fase. Nel frattempo, sul fronte dell'inchiesta per le nomine in Campidoglio, che la vede indagata per abuso d'ufficio e falso, in settimana è atteso l'interrogatorio di Raffaele Marra. A parlare oggi è anche Salvatore Romeo, l'ex braccio destro della prima cittadina, assicura che le polizze vita che le aveva intestato erano solo forme di investimento e non un finanziamento politico. Quelle polizze non costituirebbero un reato, secondo i PM, che comunque nei prossimi giorni sentiranno anche Romeo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto Matteo Renzi, confermando la direzione del PD del 13 febbraio, scrive sulla sua iNews: siamo pronti a qualsiasi confronto pubblico e democratico che sia rispettoso delle regole dello statuto interno. Accettare le regole e il risultato di un congresso o delle primarie è il primo passo per rispettare una comunità e come ci insegna la storia anche recente, dice, non sempre è accaduto. E adesso parliamo di Terra dei Fuochi. Le madri del comitato vittime della Terra dei Fuochi protestano davanti alla prefettura di Napoli. Hanno protestato oggi, hanno denunciato che negli ultimi 3 mesi sono morti di tumore 8 bambini tra i 7 mesi e gli 8 anni, e di questo torneremo poi a parlare questa sera nel corso di Effetto Notte. Mutilazioni genitali, oggi è la giornata mondiale per dire tolleranza zero. Nel mondo oggi almeno 200 milioni di ragazze e donne in 30 paesi hanno sofferto di una qualche forma di mutilazione genitale, lo evidenziano i dati dell'UNICEF in occasione appunto di questa giornata mondiale. Metà delle donne e delle ragazze mutilate vive in 3 paesi, Egitto, Etiopia e Indonesia, e dicono gli esperti danneggiano queste mutilazioni in modo permanente i corpi delle ragazze e delle donne, infliggendo un dolore lancinante, causano gravi traumi emotivi che possono durare per tutta la vita, aumentano il rischio di complicazioni potenzialmente mortali durante la gravidanza, il lavoro e il parto, mettendo a repentaglio la vita della madre e del bambino, negano alle ragazze la loro autonomia e violano i loro diritti umani. E poi parliamo di Carrefour, che in Italia ha aperto oggi la procedura di mobilità per 500 lavoratori di 57 ipermercati italiani. Lo rendono noti i sindacati che intendono chiedere al più presto un incontro con l'azienda per conoscere il piano industriale. Tra le chiusure previste a Trofarello, Borgomanero in Piemonte e a Ponte Cagnano in Campania. E ora un record di quelli negativi dell'Italia, c'è anche quello del pieno benzina mensile più caro d'Europa, un record legato principalmente alle elevate tasse accise che da noi gravano sul carburante. A rivelarlo è lo studio Car Cost Index Lease Plan, condotto in 24 paesi del vecchio continente, che assegna all'Italia anche il secondo posto dopo la Norvegia per i costi di possesso di un'auto a benzina. E parliamo di web, di giovani ipertecnologici ma ignoranti dei pericoli della rete, i nostri adolescenti. I dati arrivano alla vigilia del Safer Internet Day. Stanno sui social fino a 5 ore al giorno, ne conoscono perfettamente il funzionamento tecnico, ma i nostri millennials sono analfabeti digitali, non sanno che certe azioni sono illegali, che fine fa il materiale postato e sono dei diseducati della rete sul piano affettivo, ci racconta Anna Maria Giannini, direttrice dell'Osservatorio di Psicologia della Legalità e della Sicurezza all'Università La Sapienza di Roma, autrice di uno studio su 1500 ragazzi dai 14 ai 18 anni. Se uno gli chiede, ma sai che creare un profilo a nome dell'altro oltretutto non è neanche legale? Dicono, ah no, per me era uno scherzo. Uno scherzo che è costato la vita a diversi ragazzi che si sono suicidati, travolti dalla vergogna di quanto finito in rete. Ma che cyberbullismo, erano ragazzi fragili, rispondono gli adolescenti intervistati. Più di 8 su 10 pensa che l'insulto in rete sia meno grave di quello di persona. Da qui la necessità di un'educazione a scuola e in famiglia prima possibile. Emanuela Napoli, vicequestore aggiunto alla Polizia Postale. I primi regali che si fanno anche alla prima comunione sono proprio degli smartphone. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è il Festival di Sanremo, di cui parleremo verso la fine di Effetto Notte, di questa puntata. Oggi è stata la conferenza stampa di presentazione con i due conduttori, Carlo Conti e Maria De Filippi. Conti che ha detto: al centro di tutto ci sarà la musica, e poi sapete che ci sono anche le polemiche, sono state sul suo compenso, mentre De Filippi ha detto: sono frastornata, mi sento un po' Belen, e di questo parleremo, e poi dei big in gara e degli otto esordienti più tardi. Per chiudere il calcio, due giornate, lo sport perché c'è anche il tennis, due giornate di squalifica e la pena inflitta dal giudice sportivo agli interisti Mauro Icardi e Ivan Perisic. Dopo il match contro la Juve, l'argentino è stato squalificato per avere al termine della gara rivolto a un arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per aver calciato il pallone in direzione del direttore di gara senza colpirlo. Questo è un particolare importante. Perisic, espulso, ha ripetutamente proferito espressioni gravemente ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Per il tennis, l'Italia è nei quarti di finale di Coppa Davis. Il punto decisivo della sfida con l'Argentina l'ha portato Fabio Fognini, battendo Guido Pella in 5-7 sulla terra rossa del Parc Sarmiento di Buenos Aires. Prossimo avversario degli azzurri sarà il Belgio. E direi che con questa notizia è completo il riassunto della giornata, dei fatti più importanti dall'Italia e dall'estero. Voi proseguite con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Note oppure al numero 349-238-6666. Ci sentiamo dopo la via blitz. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, Roberto Giordano, sempre con voi, e vedo diversi messaggi sulla giornata mondiale oggi contro le mutilazioni genitali. 200 milioni donne e ragazze, almeno sono 200 milioni quelle che lo subiscono nel mondo, e dice qualcuno, cioè praticamente non c'è Egitto, Etiopia, Indonesia, ma diciamolo quella parola, musulmani, lo so, non è politicamente corretto, dice, ma bisogna riconoscerlo in quei paesi, e c'era l'elenco di questi paesi nella denuncia dell'UNICEF. E poi invece qualche ascoltatore o ascoltatrice ritorna sulla questione Raggi e dice, cioè praticamente non c'è nulla sulla Raggi, dice Marco da Varese, sta lavorando in modo eccellente, ma continuate a proporre la stessa notizia in modo fazioso, non cambierete mai. Che notizia abbiamo dato? Che Grillo semplicemente, mentre va avanti comunque questa indagine, questa inchiesta per le nomine in Campidoglio, non sulle polizze, Grillo oggi ha detto ha avuto 43 successi finora e li ha elencati. Cerchiamo di dare le notizie così come arrivano. E dopodiché vi ricordo adesso quali sono i titoli principali per chi non li avesse sentiti prima, chi non avesse acceso puntualmente alle 21, e poi cominciamo ad approfondire i temi. Lo spread risale, è a quota 200 punti, ai massimi da 3 anni, le borse in rosso. Oggi il presidente della BCE Mario Draghi avverte: l'Unione Europea non reggerà mai senza euro, e a Trump replica: noi non manipoliamo il cambio. Collegato a questa notizia c'è la dichiarazione di Marine Le Pen, che ha promesso, causando appunto il rialzo dello spread anche nel suo paese, se divento presidente faccio un referendum per portare la Francia fuori dall'Europa, dall'euro e dalla NATO. Intanto il candidato della destra Fillon chiede scusa per il Penelope Gate, ma esclude il ritiro, ne parleremo a momenti. Politica italiana, Renzi dice no, dice nel PD pronti a ogni confronto nel rispetto delle regole, Grillo elenca i successi di Virginia Raggi difendendo la sindaca. Terra dei fuochi, le madri protestano davanti alla prefettura di Napoli e denunciano che negli ultimi 3 mesi sono morti di tumore 8 bambini, confermando purtroppo la strage soprattutto dei più piccoli che si ammalano di tumore in quelle zone. Mutilazioni genitali, oggi è la giornata mondiale per dire tolleranza zero, nel mondo le hanno subite almeno 200 milioni di ragazze. Gran Bretagna, suicida in un carcere britannico l'italiano che uccise un agente di polizia, era stato condannato all'ergastolo. Benzina, è in Italia il pieno più caro d'Europa e per i costi del possesso dell'auto si spende di più solo in Norvegia. Mais c'est pour cela qu'élus j'annoncerai la tenue d'un référendum dans les 6 mois sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne. Et j'engagerai immédiatement avec nos partenaires européens dont beaucoup, croyez-moi, aspirent comme nous à la souveraineté, une renégociation avec ce système européiste tyrannique qui n'est en l'état plus un projet mais une parenthèse et objectivement, je l'espère, un jour, un mauvais souvenir. Avete sentito Marine Le Pen che in questa campagna per le presidenziali ha detto, insomma, che intende, se vince, far uscire la Francia dall'euro, dall'Europa, che dice che in realtà è soltanto una parentesi, non è un progetto e spero che prima o poi finisca, insomma. Di questo parliamo, perché avete sentito che una delle principali notizie di oggi riguarda appunto la risalita dello spread, cioè questo differenziale di rendimento tra i BTP italiani e i Bund tedeschi. Salito a 200 punti, non se ne parlava da un po', per la prima volta è successo da febbraio 2014 che sia risalito così, e anche le borse europee sono state in questa giornata piuttosto in sofferenza. Questo anche perché ci troviamo in uno scenario europeo, ma anche internazionale, se consideriamo le ripercussioni che sta avendo l'elezione di Donald Trump e le sue dichiarazioni e le sue anche decisioni. Tutto questo ha creato uno scenario in movimento, insomma, con degli equilibri piuttosto precari, e si parla in particolare di effetto Le Pen, lo spread è salito anche in Francia, vi dicevo, cioè l'effetto provocato da queste dichiarazioni che avete appena sentito di Marine Le Pen, leader del Front National in Francia, la quale appunto avete sentito ha detto: se divento presidente, via la Francia, almeno indico questo referendum per far uscire la Francia dall'euro, dall'Europa e anche dalla NATO. E tutto questo tra l'altro in un contesto politico francese in vista delle elezioni presidenziali già piuttosto movimentato, come ci confermerà il nostro Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Ma sì, il problema in realtà non sono tanto le dichiarazioni di domenica, di ieri, della Le Pen, nel senso che la Le Pen ha ribadito punto per punto la linea del suo e del partito nel programma, che è nota da tempo, quindi non c'è nessuna novità sul fronte della Le Pen. Il problema è la debolezza del candidato della destra, cioè di François Fillon, cioè fino a due mesi fa, un mese e mezzo fa, era scontato che il candidato della destra sarebbe stato il prossimo presidente della Repubblica francese. Addirittura si diceva che le primarie della destra erano di fatto delle presidenziali anticipate. Il problema è appunto l'improvvisa, inattesa fragilità del candidato della destra di fronte alle inchieste in cui è coinvolto per quanto riguarda il sospetto lavoro fittizio della moglie, dei figli, le attività della società di consulente. È chiaro, tutto questo, per quanto possa essere legale, per quanto l'inchiesta possa domani appunto concludersi avendo verificato che è legale, dal punto di vista, diciamo, etico-morale, ha avuto un impatto molto forte ovviamente nell'elettorato. Fillon ha perso molta popolarità, è passato in terza posizione. A questo punto abbiamo la Le Pen che rimane la dovera, cioè, secondo i sondaggi intorno al 25-26%, sicura di andare al ballottaggio delle presidenziali. Al secondo posto non abbiamo più il candidato della destra, che sicuramente avrebbe vinto al ballottaggio di fronte alla reazione anti-Le Pen. Abbiamo l'ex ministro dell'economia Emmanuel Macron, che mancherebbe altro, persona benissima, ex socialista ed ex banchiere, no, Marco? Però, ecco, sì, è un ex banchiere d'affari, ex ministro dell'economia. Socialista. Il problema è che è una figura politica nata sei mesi fa. È il nuovo rottamatore, si può paragonare un po' a Renzi, o quello che Renzi avrebbe voluto essere il nuovo rottamatore, perché dice non ci deve essere né destra né sinistra. Un attimo. Renzi è figura che ha una, come dire, ha un consolidato percorso politico. Cioè, Renzi è arrivata alla segreteria del PD e a Palazzo Chigi dopo un percorso politico lungo e verificabile. Insomma, uno che ha fatto il sindaco, uno che è stato sempre nel partito. Cioè, Macron è uno che arriva da niente dal punto di vista politico, quindi è chiaro che per quanto l'uomo sia appunto, ripeto, capace, intelligente, e però, come dire, è chiaro che ci sono dei dubbi sulla sua, diciamo, solidità e affidabilità politica, nel senso che passare da niente a Presidente della Repubblica, insomma, ecco una cosa che colpisce un po'. Allora è chiaro che in un contesto improvvisamente così incerto i mercati ovviamente reagiscono, nel senso che la vittoria della Le Pen, che a mio parere rimane impossibile, ma che comunque veniva ritenuta appunto impossibile fino a poche settimane fa, ora diventa una prospettiva in qualche modo credibile. È ovvio che i mercati incominciano a integrare un rischio politico Francia, visto che la Francia, il vero vantaggio competitivo della Francia è sempre stata la stabilità delle sue istituzioni. Se improvvisamente la Francia perde questo suo vantaggio competitivo, è chiaro che diventa un paese fragile. I mercati cominciano a spaventarsi e ovviamente gli spread si allargano. Senti, a proposito della possibile, che anche tu ritieni poco concretizzabile, vittoria di Marine Le Pen, sentiamo anche cosa ha detto Prodi, Romano Prodi. Se vincesse la Le Pen in Francia, quale futuro prevede? Beh, finito. Ma io non penso che vinca Le Pen e non sono mica sicuro che Trump aiuti la Le Pen, perché vede anche il patriottismo francese di fronte a un discorso dell'America che dice l'America soprattutto, solo l'America, viva l'America, non è che poi i francesi godano tanto. Che ne pensi, Marco? Dice Prodi, ma sì, se vincesse la Le Pen è finita l'Europa, è finito il progetto, l'idea di continuare, eccetera, eccetera. Questo adesso francamente non lo so, nel senso che tra quello che oggi promette la Le Pen e quello che farebbe in caso di disastro, non lo so. Io continuo a pensare che la Francia è un paese in fondo, la Francia è un paese profondamente conservatore, prima di essere un paese di destra o di estrema destra. Quindi sono convinto che nel momento in cui bisogna mettere nell'urna la scheda del ballottaggio, come dire, la pancia della Francia ha paura in fondo e dice, ma insomma, sì, forse oggi non va benissimo, insomma, l'Europa, certo, l'economia, la disoccupazione, eccetera, ma un tuffo nell'ignoto, francamente, ci sentiamo di farlo o no? Ecco. Io penso che a un certo punto l'elettore medio francese, il tuffo nell'ignoto, essendo profondamente conservatore, deciderà di non farlo e quindi di votare per l'altro candidato. Allora, il problema è chi sarà questo altro candidato. Già. E cioè se sarà Fillon, che oggi finalmente, dopo 12 giorni, ha fatto una conferenza stampa per spiegarsi e per scusarsi, non avevo capito, ho commesso un grave errore, speriamo, non so se vedremo dai sondaggi dei prossimi giorni se questo sarà sufficiente a farlo per rialzare, allontanare i dubbi e rilanciare una bella. Quindi sarà Fillon o sarà Macron o chissà. Ecco, questo è l'altro grande rischio, a mio parere, è che la sinistra trovi un'alleanza, un accordo tra il candidato socialista e il candidato della sinistra radicale, insieme farebbero circa il 22-23% dei voti, chissà mai. Ecco, quello sarebbe lo scenario, secondo me, veramente disastroso, e cioè se ci trovassimo al ballottaggio tra il candidato dell'estrema sinistra e il candidato dell'estrema destra, entrambi in modo diverso, con la prospettiva di un salto nel buio. Speriamo che questo non accada, ripeto, mancano 80 giorni al primo turno delle presidenziali, vedremo i sondaggi cosa ci dicono, ma insomma, secondo me, io continuo a pensare comunque che la Le Pen non può vincere le elezioni presidenziali. Sì, li aspetteremo aprile-maggio. Grazie intanto a Marco Mussani da Parigi. Ciao Marco. Ciao a voi. Ciao. Allora, direi che adesso ci possiamo brevemente fermare per una pausa. Voi riflettete, continuate a mandare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Mentre questo ascoltatore dice bene bene, Prodi che dà la Le Pen per sconfitte è un'ottima partenza, dice ironicamente probabilmente questo ascoltatore. Mentre per quanto riguarda gli altri messaggi, dice questo ascoltatore Giovanni, ma quanto siamo ignoranti noi italiani, pensiamo che quello che ci va di fare, ci interessa, ci piace, è buono, è giusto, è obbligatorio farlo. Penso che si riferisca a questa ricerca della sapienza sui giovani e internet, che ritengono per lo più che insultare, ingiuriare, attaccare anche ferocemente le persone su internet non sia nulla di grave, perché secondo loro non ha delle effettive ricadute. Ci risentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, ormai la sapete da tempo, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Stavo guardando i vostri messaggi mentre adesso passeremo a un altro tema di approfondimento. A proposito del caro benzina, l'Italia al record in Europa, ne parlavamo prima. Dice questo ascoltatore, Max Taxi, immagino che guidi un taxi, dice: cara benzina, benzina cara, sono un tassista, di fronte a rimborsi ridicoli abbiamo assicurazioni e benzine più care d'Europa. E poi si parla di tariffe, abbiamo detto che sono sempre anche le solite accise, tasse, eccetera. E poi la Le Pen viene data per persa come Brexit e Trump, eccetera. Come al solito i sondaggi non capiscono la pancia degli elettori, dice questo ascoltatore. Prima si parlava con il corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, che si sentiva quasi di escludere, ma non definitivamente, la possibile vittoria di Marine Le Pen, così come anche Prodi, che abbiamo sentito poco fa, dice questo ascoltatore, finisce che va come la Brexit, che tutti dicevano: ma no, alla fine la Gran Bretagna non voterà per uscire dall'Europa, e si pensava anche che Trump non avrebbe mai vinto. Infatti bisogna essere molto prudenti, e poi vabbè, si fanno i sondaggi, diciamo ormai è abitudine in tutti i paesi, almeno delle democrazie occidentali. Mentre sul cyberbullismo, vi ricordo che per interagire c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, è il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Sefora scrive a proposito di cyberbullismo: benvenuti sull'internet 2.0, aperto a tutti, senza restrizioni né responsabilità, dove l'utente medio, sia esso quarantenne o quindicenne, perde la connessione con la realtà in quanto tale. Chi è nato in questa realtà non ha mai imparato a prendersi le responsabilità delle proprie azioni e parole, dice, perché abbiamo parlato anche di questa ricerca dell'Università La Sapienza di Roma sul fatto che 8 ragazzi su 10 ritengono che in realtà non ci siano delle conseguenze, anche insultando pesantemente, attaccando ferocemente delle persone sul web, rispetto a farlo direttamente faccia a faccia. Comunque, adesso vi ricordo, ringrazio Andrea per il suo messaggio, però mi chiede perché le notizie ogni tot, perché la trasmissione è fatta così e si sa che non tutti puntualmente accendono alle 21, e quindi ricordiamo quali sono i fatti principali. Effetto Le Pen, spread in Italia e in Francia che risale a 200 punti, vola lo spread, le borse in rosso, il presidente della Banca Centrale Draghi dice l'euro è irrevocabile, e poi molto preoccupati, dice, dal protezionismo. Negli Stati Uniti, proprio di protezionismo, giganti del web contro il bando agli immigrati musulmani di Trump, anche i gesuiti contro Trump, e poi c'è il disaccordo da parte di Mosca sull'Iran. Sapete che il presidente Trump ha detto che l'Iran è il paese terrorista, il nemico numero uno. Poi per quanto riguarda la politica italiana, per il PD Renzi dice: siamo pronti al dialogo ma con le regole. Grillo intanto appoggia e difende la sindaca Raggi e fa l'elenco dei 43 successi della sua amministrazione, mentre Mattarella, il presidente della Repubblica, chiede ai magistrati di non smarrire il senso del limite nell'esercizio del loro lavoro. Poi per quanto riguarda questo rapporto dell'Unione Europea, l'Italia sarebbe indietro nell'affrontare sia lo smog che nella gestione delle acque reflue. E poi la denuncia delle madri della Terra dei Fuochi, che dicono in tre mesi, negli ultimi tre mesi, sono morti 8 bambini. E proprio di questo parliamo, una notizia che ha riportato sotto i riflettori infatti la Terra dei Fuochi, questa cosiddetta Terra dei Fuochi, quest'area. Sono quasi una cinquantina di comuni tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, tristemente nota per lo smaltimento illegale di rifiuti molto pericolosi. La notizia riguarda la terribile denuncia di alcune madri della Terra dei Fuochi, secondo cui appunto negli ultimi 20 giorni sono morti di tumore 8 bambini tra i 7 mesi e gli 11 anni. In realtà, Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao Roberta. Queste sono morti che continuano da tempo, e c'è anche uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità purtroppo, che conferma che c'è un'alta mortalità. Purtroppo è una situazione che va avanti da anni e che viene denunciata da anni. Quella di oggi è stata l'ennesima denuncia di genitori schiacciati dal loro dolore e non rassegnati, diciamo, a queste battaglie quotidiane che vivono nelle corsie degli ospedali e dei reparti oncologici pediatrici. Ma sono denunce che vanno avanti appunto da anni. Oggi l'hanno ripetuta approfittando in qualche modo della presenza di rappresentanti del governo a Napoli per un vertice in prefettura su Bagnoli, quindi tutt'altra vicenda. E queste madri protestavano proprio davanti alla prefettura di Napoli, sì, no? Più che protestavano, appunto hanno voluto portare le loro storie, le loro testimonianze, che partono appunto dalla drammatica straziante appunto contabilità delle morti, che è fatta appunto di questi 8 bimbi morti. In realtà non si, anche se la notizia è stata diffusa come 20 giorni, in realtà mi hanno raccontato che li hanno più o meno calcolati in circa 3 mesi, ma poi è una coincidenza che in alcuni mesi siano di più, in altri siano di meno. Quello che è vero è quello che anche l'Istituto Superiore della Sanità già negli anni scorsi ha documentato e solo poche settimane fa nell'aggiornamento ai suoi studi ha confermato, e che in quest'area, in questi 55 comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi, esiste un'incidenza che è superiore alla media dei casi di mortalità e dei casi di malattie, soprattutto tumorali. In particolare tra i bambini. Con una preoccupante incidenza maggiore soprattutto tra i bimbi e tra i bimbi piccolissimi. Come piccolissimo, ad esempio, era Riccardo, che non aveva neanche 2 anni, e ne parlo al passato perché purtroppo è morto, e la sua mamma, Anna Magri, è diventata una di queste mamme che adesso si battono per avere delle risposte, soprattutto per gli altri loro figli. Il mio bambino aveva 22 mesi e che è venuto a mancare per una leucemia. Lui si è ammalato a 6 mesi, abbiamo vissuto 18 mesi in ospedale. Io ho incontrato tanti bambini, anche più grandi di mio figlio, cui diagnosticavano questi brutti mali. Quando ho iniziato a vivere in quell'ospedale ho compreso che in questa terra accadeva qualcosa che io non avevo compreso. Nel dolore ho voluto delle risposte. Lottiamo contro un'indifferenza tale che a volte ci fa stare più male del lutto stesso. Milioni di promesse e non ce ne hanno mantenute. Nessuna. Qualche prima risposta in questi ultimi anni c'è stata, con una legge ad hoc sulla Terra dei Fuochi. Cos'è che soprattutto chiedete? Che tipo di attenzione e che tipo di risposta? Noi abbiamo trachiesto continuamente la sorveglianza dei territori, cioè per evitare che ci siano ulteriori sversamenti. Esattamente, perché ancora oggi purtroppo si sversa, si brucia. Qualche giorno fa ci hanno postato proprio un rogo. E poi la bonifica, perché se mi coltivi un pomodoro in una terra marcia, ma io che pomodoro do a mangiare a mio figlio? Dove non si può coltivare si venga chiuso, si venga sbarrato e finisce lì. Dove invece è possibile coltivare si coltivi e si premia anche l'agricoltore virtuoso. Che situazione, Raffaella? Parlava questa mamma di milioni e milioni di promesse, insomma, per dire tantissime che non sono state, e poi che sono state disattese. Qualcosa si sta facendo o se ne parla giusto quando ci sono? Diciamo che proteste? Dopo anni in cui, perché questa è una situazione che va avanti veramente ormai da anni, e come ormai è stato... Ricordiamo perché, che cosa è successo? Allora, questa Terra dei Fuochi, come all'inizio era qualcosa che era confinato esclusivamente alle pagine di cronaca giudiziaria che raccontavamo, ma che non aveva un impatto così forte per quello che effettivamente è. È successo che per anni questa zona è stata un po' la pattumiera di mezza Italia, anzi con prevalenza soprattutto di alcune realtà industriali soprattutto del nord. Che andavano a sversare rifiuti tossici in questa zona che è sotto il controllo soprattutto del clan dei Casalesi, si erano resi conto come col traffico dei rifiuti si guadagnasse di più che con qualsiasi altro tipo di traffico illecito. Per cui è successo che per anni si è bucata questa terra, che è una delle terre più fertili e più anche redditizie di tutta Italia, ed è stata avvelenata, ed è stata in una zona molto ridotta, che poi va da detto anche questo perché il tema è assai delicato. Questa è una zona di coltivazioni importanti, è una zona di mozzarella di bufala importante, ecco, in un'area estremamente ridotta. Però effettivamente è avvenuto che c'è stato questi sversamenti continui, come a cominciare dal più famoso dei pentiti, Carmine Schiavone, aveva già denunciato e documentato anche a noi a Radio 24, aveva detto esattamente dove erano avvenuti questi sversamenti. Quindi a un certo punto questa situazione, da che era più o meno raccontata in modo frammentario, si è imposta con la sua drammatica evidenza. Ci sono state anche ai più alti livelli istituzionali la situazione è stata affrontata. I governi precedenti, il governo Renzi ha introdotto una legge sulla Terra dei Fuochi, con Renzi sono anche partite anche lo smaltimento delle ecoballe che erano lì toccate da anni se non da decenni, che questo è anche un tema assai complesso che prevede tanti aspetti, non uno soltanto. Però come sentivamo già anche da questa mamma e come tutto il movimento che fa capo soprattutto a Don Maurizio Patriciello da tempo chiede, è che partano queste famose bonifiche che dovevano partire, non sono ancora partite, insieme ad uno screening, alla possibilità di dare alle popolazioni che vivono in queste zone anche in modo gratuito una possibilità di fare della prevenzione rispetto a queste malattie, gli esami, e anche perché quello che ho percepito adesso e che possiamo sentire casomai una testimonianza che è molto breve, c'è una esasperazione crescente perché dicono: noi sono anni che denunciamo questa situazione, adesso vogliamo delle risposte vere, come ci ha detto Fabio Mazzei. Noi vogliamo mandare un messaggio forte, ma ti dico forte sottolineandolo: questo territorio vogliamo capire se è bonificabile o no ancora, se è stato martoriato a tal punto che una bonifica realmente poi non ci può essere, perché ce lo dicessero prima. Noi facciamo le valigie e andiamo fuori Italia, perché io sinceramente ho una figlia malata con un tumore, un'altra di 3 anni e mezzo, e non aspetto che mi si ammali anche lei. Vogliamo solo capire se c'è la volontà di farlo o meno, perché ci siamo scocciati di andare ai funerali di bambini e vedere bare di 60 centimetri, ma il nostro modus operandi di stamattina, pacifico, con lo striscione, poi può diventare anche un modus operandi, nel caso in cui ci voltino per l'ennesima volta le spalle, un po' diverso da quello pacifico di stamattina. Non vuole essere una minaccia, non vuole essere una presa di posizione, ma vuole essere semplicemente una difesa dei nostri diritti, punto. Fa venire i brividi, fa venire i brividi, ma testimonia anche un po' dell'esasperazione. Lui è un altro dei genitori, la sua bimba Ginevra ha pochi anni ed è appunto che combatte contro questa malattia, come le storie degli altri. E lui dice: non voglio aspettare bimbi, che anche l'altra però ecco, per la prima volta dopo tanti anni che devo dire mi occupo di questa vicenda, sento da parte anche dei genitori di chi vive in quest'area un'esasperazione crescente. Certo, c'è forza di vedere bare bianche che passano, insomma, in questo paese, in questa zona. Raffaella, quindi dicevi le bonifiche, insomma, ancora sono un po' di là da venire. Allora, la situazione è assai complessa. Ci sono stati fatti senza alcun dubbio dei passi in avanti e ci sono stati anche già stabiliti degli stanziamenti per questa area. Soprattutto appunto, ed è partita anche la rimozione di queste ecoballe. Detto questo, il problema non si interrompe, perché da una parte è necessario bloccare ulteriori sversamenti e ulteriori roghi di rifiuti tossici. Perché si chiama terra dei fuochi, perché si cominciarono a raccontare, a testimoniare, a filmare questi piccoli roghi, questi falò a cielo aperto, anche che avvenivano di rifiuti di qualsiasi genere, che poi insomma hanno fatto scoprire anche quello che c'era sotto la terra. Dall'altra parte, appunto, quindi bloccare questo, dall'altra parte avviare dei processi di bonifica, che chiaramente sono processi molto lenti, di questo dobbiamo essere estremamente consapevoli, ma che partano, perché quello che questi genitori chiedono è che ci cominci ad essere, nelle tristi statistiche anche delle malattie, un'inversione di tendenza con un miglioramento. Davvero, ne hanno assoluto diritto. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Tante le notizie che avete sentito finora, che vi ho raccontato anche insieme agli ospiti, sempre Roberta Giordano con voi, per i vostri messaggi, considerazioni, pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire sempre senza indugio giorno e notte, e poi il numero anche questo per i messaggi WhatsApp, che è 349-238-6666. Erika da Firenze, a proposito della giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili, che è oggi, abbiamo parlato di 200 milioni tra donne e ragazze, almeno 200 milioni che le subiscono, dice: credo che dovremmo fare di più per impedirle, è una tortura legalizzata che lascia strascichi per tutta la vita, come appunto sentivamo. Adesso vi ricordo molto velocemente le notizie principali, che sono appunto questo effetto Marine Le Pen sullo spread Italia e Francia, che sale, non saliva dal 2014, a 200 punti, poi le borse in rosso, il presidente della Banca Centrale Draghi che dice: l'euro è irrevocabile, non se ne esce, e siamo molto preoccupati dal protezionismo, i giganti del web contro Trump e il suo bando per gli immigrati musulmani, anche i gesuiti contro il presidente americano, e poi il PD per quanto riguarda la politica italiana. Renzi dice sì al dialogo, però con le regole. Grillo che appoggia, difende la sindaca Raggi ed elenca i 43 successi che ha avuto per la sua amministrazione. Poi il rapporto dell'Unione Europea sull'Italia, che dice indietro sia sulla gestione dello smog che delle acque reflue. Abbiamo appena parlato poi della terra dei fuochi, con la denuncia delle madri che dicono negli ultimi 3 mesi sono morti 8 bambini di tumore. E poi Sanremo, oggi la conferenza stampa, ne parleremo dopo, ma intanto Europa. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Apriamo il dossier fondi europei. Su una dotazione totale di 46,4 miliardi di euro prevista per l'Italia dall'Unione Europea per il programma 2007-2013, esiste una graduatoria a indicare le aree più veloci e quelle più lente a utilizzare i fondi europei. Ad eccezione della Puglia, fino ad ora sono state le regioni del sud le meno interessate a pescare dal salvadanaio dell'Unione. Con un'accelerata finale l'Italia ha impiegato tutti i fondi del ciclo di programmazione appena concluso. Per capire come le regioni possono pianificare un'adeguata progettazione per i nuovi fondi europei, ne parliamo con l'europarlamentare Andrea Cozzolino. Con grandissimo affanno, come al solito, arrivando fino all'ultimo minuto utile, però ce l'abbiamo fatta, nel senso che l'Italia ancora una volta è riuscita nell'arduo compito di non restituire neppure un euro all'Europa. Adesso lo sforzo è concentrato soprattutto sulla nuova programmazione, sulle risorse che sono ingenti a disposizione dell'Italia e soprattutto delle regioni del Mezzogiorno, e la scelta che è stata fatta di concerto tra autorità locali, cioè regioni e comuni, e il governo nazionale è quello di lavorare su protocolli, accordi, patti non generici, ma intorno a una lista di progetti che hanno bisogno di risorse, di tempi, e quindi questa volta davvero ci auguriamo che non ci sia la scadenza ultima, ma che nei prossimi anni possiamo fare una verifica concreta dei programmi di attuazione delle risorse comunitarie. A guardare l'impiego dei fondi, fino ad ora sembra che ci sia un'Italia a due velocità, divisa tra nord e sud. In parte questo è vero, perché siamo in presenza anche di misure e di risorse totalmente differenti, diciamo così. Cioè, una cosa è avere un programma di svariate decine di miliardi, una cosa è avere un programma di poche centinaia di milioni di euro, insomma, quindi e la differenza è tutta qui. Poi c'è un differenziale che secondo me tende un po' a omologarsi in Italia, è quello che io considero uno dei grandi obiettivi della nuova programmazione, cioè riformare la macchina amministrativa. Abbiamo un invecchiamento ormai della macchina amministrativa, non abbiamo più figure apicali in grado di gestire programmi così complessi, abbiamo bisogno di immettere nuove energie nella pubblica amministrazione, soprattutto ai livelli medio-alti, e quindi uno dei grandi obiettivi che discuteremo nei prossimi mesi è come accompagnare l'Italia a riformare la sua macchina pubblica, in grado di utilizzare meglio le risorse europee, le politiche europee e soprattutto di un più efficace funzionamento, diciamo così, dell'apparato pubblico. È decisivo per una ripresa ingente degli investimenti pubblici. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Ho capito che è proprio vero quello che diceva Baudo, no? Quando diceva che Sanremo è tutto diverso. Sono arrivata a Sanremo e ho avuto l'onore di pensare per 3 giorni che ero un po' come Belen, nonostante il fisico fosse diverso, perché avevo l'onore di avere una serie di fotografi che mi immortalavano quando entravo in macchina e scendevo dalla macchina. Questo è detto oggi in conferenza stampa Maria De Filippi, co-conduttrice insieme a Conti da domani della 66esima edizione del Festival di Sanremo. E su questo vorrei coinvolgere Enzo Gentile, critico musicale, autore di Time After Time, After Time, Dove, Quando e Perché nella storia del pop rock. Ciao Enzo. Buonasera, ciao a tutti. Senti, vorrei quindi una istantanea da te, da critico musicale di questa edizione, sia per quanto riguarda la conduzione, sia per quanto riguarda, ci sono 22 big, 8 nuove proposte, ma si danno per vincitori vecchia guardia, insomma, o Fiorello Mannoia o Albano, Enzo. Sì, questo dicono i bookmaker, però l'anno scorso nessuno dava vincitore di stadio, quindi ci può essere sempre qualche scatto, no? Qualche qualche imprevisto come nei sondaggi politici, insomma. Esattamente, sicuramente. Poi quest'anno votano sia la sala stampa sia il pubblico da casa, quindi potrebbe esserci un bilanciamento maggiore rispetto alla vittoria di un Albano, per esempio. Dicono che è molto buono anche il pezzo di Paola Turci, per esempio. È un bel ritorno questo. Ermel Meta, sì, ci sono alcune canzoni discrete. Credo che non cambieranno neanche quest'anno le sorti della musica italiana, così come vedo che già si parla molto, forse troppo, dei conduttori, che dovrebbero essere quanto più invisibili se questo è un festival della canzone. Se invece è uno show televisivo, come ormai è chiaro, ben vengano i comici. Io sono un fan di Maurizio Crozza, però pensate a vedere 4 ore di festival per beccare anche lui, ecco, questo non è forse da tutti. Il festival purtroppo è sempre meno un evento musicale. Io, guarda, per curiosità mi sono guardato, sfogliando il mio libro, perché non è che non ricordo a memoria, quali erano gli ospiti internazionali delle edizioni passate. Ed è sorprendente perché, per esempio, solo nel 2000, non tantissimo tempo fa, c'erano Sting, Oasis, Yus Sundur, ospiti sul palco. Sì. Pochi anni prima, nel 98, c'erano Jimmy Page e Robert Plant, Bryan Adams, José Feliciano. Nel 95 ospite c'era niente meno che Bruce Springsteen, non solo lui. Però era Quindi un vuoi po'... dire che è scesa la qualità? Sicuramente non c'è l'attenzione per la musica, si deve fare qualcos'altro per crescere negli ascolti, forse per stuzzicare. D'altronde tutti dicono che è una vetrina il Festival di Sanremo, e quindi in questi giorni i collegamenti arrivano continuamente comunicati, per cui tutti saranno pionisti al Festival di Sanremo. E vedremo questo show a partire da domani, allora. Grazie Enzo Gentile e buon festival anche a te, insomma. Dei pochi che non va a Sanremo, quindi insomma devo dire che mi sento in uno splendido di isolamento, come si diceva una volta. Sì, ci isoliamo, lo sentiamo attraverso la radio. Grazie Enzo Gentile, noi ci ragioniamo brevemente alle 22.